ti regalerò la luna nel bosco, quando sarai un po' più grande, un po' cresciuta, un po' sicura per stare con me. Non è per te, te meriti molto di più. È qui la felicità che tu cerchi da tempo, girando a vuoto in questo mondo che non c'è, non ti appartiene, non è quell'uomo con cui stai. Non fa per te, non dilungarti, non è l'aspetto e il sentimento che tu puoi nutrire, tu puoi dare, tu puoi fare molto di più. In questo mondo tu sei un dono e non un caso. Lo capirai quando la luna nel bosco apparirà. La felicità, la felicità sarà perfetto, sarà uno sballo, illuminerà tutto il mondo che non hai visto mai. Il bosco splenderà, la luna illuminerà quello che tu vuoi. Tu potrai amare e fare tutto quello che vuoi con me. Regalerò la luna nel bosco, quando sarai insieme a me, un po' cresciuta, un po' sicura per stare con me. Tutto a te io lo darò, perché tu meriti tutto e di più. Guardala, è la tua realtà che tu cerchi da tempo, e guarda la luna come splende già. Lei ti appartiene e il bosco splende tutto per te. Adesso ridi insieme a me. Tu puoi nutrire, tu puoi dare, tu puoi amare molto di più. In questo mondo tu sei un dono e non sei per caso. Lo capirai quando la luna nel bosco apparirà. La felicità, la felicità sarà perfetto, sarà uno sballo, illuminerà tutto il mondo che non hai visto mai. Il bosco splenderà, la luna illuminerà quello che tu vuoi. Tu potrai amare, fare tutto quello che vuoi.